Nel 1990 ad Almaty, tra le montagne del Tien Shan, nella parte sud-orientale del Kazakistan, soggiornammo per un mese in un piccolo ostello destinato agli studenti specializzandi e studiammo assieme ad alcuni membri dell'Accademia delle Scienze Naturali Kazaka. In Kazakistan esistono circa 100 etnie diverse, la maggior parte delle quali vi si trasferì durante il regno del terrore di Stalin. Quando tornai a Berkeley, ansiosa di comunicare l'offerta del Kazakh Institute di cooperare con un'organizzazione americana, non riuscii a trovare un singolo membro del Dipartimento di Studi Internazionali che avesse mai sentito parlare del Kazakistan. Alla fine creai io il Kazakh American Research Project Inc. Il mio lavoro poteva ora finalmente iniziare. Nel 1991 ci fu il crollo dell'Unione Sovietica. Le popolazioni nomadi dell'antichità non hanno lasciato documenti scritti e, sebbene greci come Erodoto nel V secolo a.C. abbiano scritto sugli abitanti delle steppe, essi mescolano racconti di campagne militari, contadini laboriosi e pastori nomadi con storie fantastiche di uomini da un occhio solo, di grifoni che custodivano le pepite d'oro scendendo dalle montagne e di tribù di donne guerriere dal temperamento aggressivo e ostili verso gli uomini. Questi racconti non aiutarono nessuno a comprendere la vera natura dei nomadi dell'Eurasia. Quanto a me è stato grazie all'invito del collega Jablonski a partecipare ad alcuni scavi da lui diretti nel 91 che ho potuto approfondire gli aspetti storici e archeologici delle tribù che mi affascinavano tanto. I Saka, che occuparono le steppe orientali e le montagne del Tien Shan e dell'Altai dall'VIII al III secolo a.C., i Sauromati, che nel VI e V secolo a.C. vissero nella zona sud degli Urali e lungo i fiumi Volga e Don, i Sarmati, un'altra popolazione nomade dalle origini misteriose che iniziò a soppiantare i Sauromati attorno al IV secolo a.C. Gli archeologi russi fanno appartenere i Sauromati alle regioni del basso Volga e del fiume Don e ne datano la presenza a partire dal VII secolo a.C. Anche prima dei miei scavi a Pokrovka con Jablonski, gli archeologi russi avevano già registrato nei loro rapporti la presenza di donne guerriere e sacerdotesse. Un paio di loro aveva scritto degli articoli definendo i Sauromati una tribù a dominazione femminile. Ma a causa della guerra fredda e delle scarse comunicazioni all'epoca tra Oriente e Occidente, niente di tutto ciò fu pubblicato in lingua inglese. In realtà, gli stessi archeologi sovietici erano poco interessati a questo genere di argomenti e preferivano concentrarsi sui più spettacolari tumuli sepolcrali in cui erano sepolti i capi tribù di sesso maschile. Di conseguenza, anche tra gli archeologi, il concetto prevalente di nomadi delle steppe era quello di un gruppo di spietati guerrieri dai capelli corvini e gli occhi scuri a mandorla che a cavallo di piccoli pony fecero razzie in tutta Europa, nel Medio Oriente e nell'Asia orientale, assediando le città e sterminando gli uomini prima di portarsi via le donne per moltiplicarsi ulteriormente. La storia vera ovviamente è meno cruenta e più complessa. Mentre decifravo i nostri ritrovamenti nell'area di Pokrovka, mi apparve chiaro che i Sauromati e i Sarmati dovevano essere stati un gruppo variegato di caucasici, tra i quali le donne godevano di un'importanza e di un potere che andava ben oltre l'immaginazione dei miei colleghi. Andando a caccia di indizi, mi accorsi inoltre che le fanciulle e le matrone nomadi delle steppe che combattevano coraggiosamente a cavallo dei loro destrieri o che leggevano il futuro con l'ausilio dei loro specchi di bronzo erano presenti nelle società arcaiche di tutto il mondo. Molte appartenevano a società guerriere ad apparente predominanza maschile che incrociarono in qualche modo i percorsi delle donne dei Sarmati e dei Sauromati. Ogni scoperta che facevo mi costringeva ad andare più a fondo per scoprire la storia nascosta di queste donne. Alla fine, la mia ricerca arrivò a includere la Grecia dell'età dell'oro, il regno di terrore dei vichinghi, le regine guerriere dei Celti e le lottatrici alle corti dell'impero mongolo. Tutto però aveva avuto inizio nelle pianure del Kazakistan, presso i tumuli sacri dove i nomadi dell'età del ferro un tempo seppellivano i loro morti. L'interesse per la cultura dei nomadi dell'età del ferro inizialmente cominciò a diffondersi nel XVII secolo, quando, durante l'espansione della Russia verso est attraverso la Siberia, gli esploratori scoprirono che le massicce collinette di terra, visibili da chilometri di distanza, custodivano tesori straordinari, artefatti dal valore inestimabile. Oggi risplendono nella stanza d'oro dell'Ermitage a San Pietroburgo. Nella lontana Ucraina, a metà del XVIII secolo, i russi scavarono un grande kurgan, ma non si accorsero che si trattava di una costruzione sciita fino a circa 60 anni dopo, quando aprirono il kurgan di Kul-Oba, che si trova nella regione settentrionale del Mar Nero, dove rinvennero i resti di un capotribù, di sua moglie e di un loro servitore. A quel punto, a partire dalla seconda metà del XIX secolo, l'esplorazione e gli scavi degli antichi sciti si diffuse in tutta l'Ucraina e nel nord delle montagne del Caucaso, spronati dalla singolare ed eccitante scoperta di alcuni tumuli sepolcrali che contenevano centinaia di cavalli, raffinate placche in stile animale e calderoni di bronzo. Gli storici russi del primo Novecento erano convinti che gli sciti confinassero a est con i sauromati e i sarmati, e così iniziarono a consultare gli scritti di Erodoto e di altri autori classici nel tentativo di dare una collocazione precisa a queste popolazioni nomadi. Ma fu solo dopo il 1905 che vennero scavati i primi kurgan sauro-sarmati delle regioni del Basso Volga e del Don. Stranamente, prima del 1929, i russi non avevano identificato i sauromati che Erodoto associava alle Amazzoni, probabilmente perché era necessario poter confrontare l'architettura e gli artefatti di molti kurgan prima di poter avere un quadro preciso di quel tipo di cultura. La Seconda Guerra Mondiale, la Grande Guerra, come la chiamano i russi, provocò una battuta d'arresto negli scavi fino alla fine degli anni 40. Vari scavi su larga scala, ben sostenuti dai finanziamenti sovietici, ripresero a nord del Mar Nero, dove grandi kurgan sciti dominavano il paesaggio, e in quelle del Don e del Volga, solo di recente identificate come territorio sauro-sarmata. Molto più a est, in Siberia, sulle montagne dell'Altai, tra gli anni 50 e 60, l'archeologo russo Sergei Rudenko scoprì cinque grandi kurgan e li associò alla cultura Pazirik, di cui parleremo più avanti. Nonostante Rudenko avesse meticolosamente catalogato la presenza delle donne nei tumuli sepolcrali dei Pazirik, le liquidò come mogli sacrificate per accompagnare i loro regali mariti nell'aldilà e non come donne di potere. All'incirca, nello stesso periodo in cui Rudenko scavava in Siberia, un altro archeologo russo, Smirnov, trovò altri siti sepolcrali sauro-sarmati nella regione meridionale degli Urali. Egli scrisse un eccellente compendio sui suoi ritrovamenti che spiegava le differenze principali tra i diversi gruppi di nomadi. Smirnov attribuì alle donne di quelle sepolture un ruolo predominante, arrivando a pubblicare nel 1982 un articolo in cui definiva Amazzoni la popolazione stanziata nella regione del Basso Don intorno al IV secolo avanti Cristo. Per dissotterrare i tumuli funerari dei nomadi è necessario rimuovere enormi quantità di terra dalle buche. Spesso il tumulo principale, quello al centro per il quale è stato costruito il kurgan, si trovava in una catacomba, una costruzione simile a un tunnel che si estendeva da un limite all'altro della buca. Ecco la cronologia delle tribù di nomadi primitivi. I Saka dall'VIII al III secolo avanti Cristo, gli Sciti dal VII al III secolo avanti Cristo, i Sauromati dal tardo VII, inizio VI secolo avanti Cristo fino al IV, i primi Sarmati dal IV al II avanti Cristo, i Medi Sarmati dal II avanti Cristo al II dopo Cristo e i Tardi Sarmati dal II al IV secolo dopo Cristo. Antichi riti di sepoltura e costruzione di kurgan. Nonostante i Sauromati e i Sarmati attraversassero grandi spazi nei loro viaggi, queste tribù seppellivano i loro morti solo nei pascoli estivi. e i loro cimiteri erano considerati luoghi assolutamente sacri dove, anno dopo anno, le tribù eseguivano rituali commemorativi. Se i nomadi morivano in inverno o durante la migrazione, i loro corpi venivano lavati con deferenza. È probabile che la maggior parte dei muscoli e degli organi venisse rimossa e le cavità riempite con paglia ed erbe aromatiche per essere poi ricucite con precisione con crini di cavallo. Quindi che i corpi venissero cosparsi di cera o miele per favorirne la conservazione, pratica comune a molte popolazioni del primo millennio a.C., inclusi gli sciiti. I corpi venivano avvolti in teli di feltro rinforzati con canne, legati con funi di lana e conservati durante l'inverno all'interno di alberi per proteggerli dagli animali selvatici, fino a quando potevano essere trasportati ai luoghi di sepoltura. Molte di queste tradizioni furono trascritte da Erodoto e successivamente verificate dagli archeologi durante gli scavi delle tombe congelate di Pazirik nella Siberia del Sud. Una volta arrivati ai loro pascoli estivi, i nomadi seppellivano i corpi in kurgan preesistenti o ne costruivano di nuovi. Questi tumuli sepolcrali, alcuni dei quali risalgono all'età del bronzo, possono essere delle strutture imponenti. I resti dei siti dei grandi capi, che i russi chiamano Kurgan degli Zar, sono appena all'interno del confine kazako, vicino a Pokrovka, e si stagliano per circa 30 metri di altezza e 110 metri di larghezza sulle pianure. I nostri kurgan di Pokrovka erano molto meno imponenti, ospitavano i resti della classe media nomade, misuravano circa 20 metri di diametro e all'origine erano probabilmente alti tra 1,82 e 2,70 metri. I nomadi ripulivano una zona circolare ed effettuavano al centro di essa uno scavo di forma rettangolare o ovale allungata con una profondità tra 1,80 m e 2,40 m. Alcuni kurgan contenevano anche delle catacombe, tunnel senza uscita, lunghi 1,50 m, 1,80 m, che si estendevano alla fine dello scavo centrale o altrimenti delle nicchie orizzontali scavate lungo i lati della fossa, entrambi utilizzati per le sepolture. Occasionalmente un kurgan esibiva una costruzione più elaborata, quale ad esempio una struttura in legno simile a una cabina interrata che ospitava il defunto e le offerte funerarie. Una volta scavata la camera tombale, i corpi venivano distesi per riposare, sepolti in un sarcofago di legno modellato con creta o semplicemente avvolti in teli di feltro. I primi sauromati a Pokrovka posizionavano sempre i loro defunti verso il sole nascente, cioè la sommità del capo, in modo che puntasse verso est. Diversamente, i sarmati preferivano seppellire i loro morti con le teste orientate verso sud. Il posizionamento dei defunti era in posizione supina. Gli oggetti che potevano dimostrarsi utili nella vita dell'aldilà, come un cosciotto di montone, un coltello di ferro per tagliarne la carne e vasi di terracotta contenenti latte di giumenta fermentato e leggermente alcolico, brodo o acqua, venivano posizionati nella camera della sepoltura. Una varietà di altre offerte mortuarie veniva inoltre collocata nella camera a seconda dello status del defunto. Ciò poteva variare da una faretra di punte di freccia in bronzo fino a un altare cerimoniale intagliato nella pietra, da conchiglie fossili a rare perline di vetro. Quando ogni cosa era stata sistemata e il corpo protetto dal terriccio che poteva infiltrarsi, i partecipanti al rito funerario riempivano lo scavo. Nelle tombe più ampie e forse più prestigiose, essi costruivano anche un muro di creta gialla pressata alto circa 60 centimetri, tutto intorno alla fossa. A questo punto, fango e terriccio venivano ammucchiati sopra, creando il tumulo. Per tutto questo tempo, senza dubbio, diversi giorni o addirittura settimane, essi si nutrivano di cibi rituali. A causa dell'intensità del lavoro necessario per tali sepolture, non sorprende che la maggior parte dei kurgan fossero riutilizzati molte volte nei secoli. La maggior parte di quelli da noi portati alla luce a Pokrovka conteneva da 2 a 30 tombe. Occasionalmente anche altri defunti potevano essere aggiunti al kurgan facendoli passare attraverso un tunnel tunnel e spingendo da parte gli altri scheletri per far spazio a chi era appena morto. Più spesso venivano scavate nuove fosse laterali intorno a quella centrale, passando attraverso la sommità del tumulo per evitare di disturbare le sepolture precedenti, il che suggerisce che i Becchini conoscessero la posizione delle tombe precedenti e che quindi fossero membri dello stesso clan. A volte celebravano, durante o dopo la costruzione dei tumuli, con banchetti in cui veniva consumata carne di cavallo, un cibo rituale. In una tomba abbiamo anche scoperto semi di piante allucinogene. Ciò suggerisce che i nomadi probabilmente bruciavano queste piante e respiravano i loro vapori intossicanti durante i rituali funerari. I vasi di creta cotta erano virtualmente onnipresenti in ogni tomba perché cibo e bevande erano indispensabili per il viaggio verso l'altro mondo. Tuttavia, i fusi da filatura, i piccoli volani utilizzati per pesare il fuso e regolare la sua velocità, fatti di pietra o modellati da pezzi di ceramica, e gli occasionali pseudofusi da filatura ricavati da gesso morbido furono trovati esclusivamente nelle sepolture femminili. Gli altari sacrificali di pietra intagliata e di terracotta costituivano il marchio di riconoscimento delle sacerdotesse e potrebbero anche essere serviti come mortai per polverizzare pezzi di minerali colorati. Questi magici colori divenivano quindi pitture corporee o tessili. Ogni offerta funeraria non era solo una riproduzione della posizione del defunto in vita, ma costituiva anche uno strumento pratico o rituale che doveva servirgli nel mondo successivo. È incredibile quanto poco siano cambiate negli ultimi 2500 anni le abitudini di vita dei kazaki, dei mongoli e delle altre popolazioni che ancora praticano la pastorizia nomade. Come scienziata so che è abbastanza rischioso estrapolare le abitudini passate da quelle presenti, tuttavia la mia soluzione fu di recarmi nei loro pascoli estivi, dormire nelle loro yurte, mangiare il loro cibo, osservare come si comportavano con i bambini e gli animali e fare domande. Per 6 settimane, nell'estate del 1996, divenni una nomade sui Monti Altai occidentali. Viaggiando da un campo all'altro in jeep su accidentate piste di montagna, osservai la vita quotidiana degli insediamenti. Guardai le donne mungere gli yak, le pecore e le capre, quindi bollire il latte fino a farlo quasi caramellare sui fuochi di letame accesi in stufe di latta al centro della yurta. Poi tagliare e seccare il formaggio, chiamato kurt, sui tetti spioventi delle yurte. Il kurt, alimento base per la sussistenza invernale, è così duro che deve essere inzuppato per divenire commestibile. In un alto campo altaico chiamato Dayan, li osservai da vicino. Nonostante nei tempi antichi i nomadi fossero una popolazione patriarcale, una delle cose che mi colpì osservando i mariti, le mogli e i bambini lavorare insieme fu come fossero egualitari gli aul, gli accampamenti. Anche dopo che le popolazioni tribali entrarono in contatto con culture a dominio maschile, come quella russa o islamica, gli uomini e le donne continuarono a lavorare fianco a fianco e spesso sugli stessi compiti. Tutti aiutano ad assemblare e piantare le yurte, e anche se le donne devono preparare gran parte del cibo quotidiano, gli uomini partecipano cucinando carne di cavallo saporita in grandi taniche d'olio tagliate, che servono come alternativa moderna ai calderoni di bronzo di un tempo. Le donne si prendono cura dei neonati, ma ho visto spesso uomini occuparsi dei bambini piccoli mentre le mogli erano occupate in altre faccende. Sia gli uomini che le donne collaborano alla manifattura del feltro di lana che viene usato per i vestiti, i tappeti, le coperte e i rivestimenti esterni delle yurte e condividono i molti doveri associati all'allevamento di cavalli, pecore, capre, yak e altri animali. I ragazzini aiutano le madri a preparare il cibo, a portare l'acqua dai fiumi o dai laghi fino alla yurta, a mungere il bestiame e a svolgere altri lavori domestici, mentre le ragazze imparano a cavalcare e a radunare il bestiame. Le donne in particolare devono essere pronte a svolgere tutti i doveri dell'accampamento perché molti degli uomini possono allontanarsi per lunghi periodi per radunare mandrie disperse o per commerciare e acquistare scorte in insediamenti molto distanti. Il retaggio nomade kazako è a dominazione maschile. Ma questa situazione apparentemente iniqua va approfondita meglio. È vero che il figlio più giovane eredita le proprietà del padre alla sua morte, ma tutte le figlie e gli altri figli maschi ricevono una buona parte dei beni familiari quando si sposano. Le donne non sono trattate male. Oltre a tutto l'occorrente per la giurta nuova, parte della loro dote è investita in gioielli fatti con monete d'argento e pietre preziose. E il loro saulk, l'alto cappello a punta, è ricoperto con metalli preziosi e placche ingioiellate. Uno di questi copricapo, risalenti al secolo scorso, era così riccamente adornato con ornamenti d'argento e d'oro che si dice valesse 40.000 cavalli, un bene di gran valore nella valuta nomade. Quando la famiglia si è assicurata tutti gli animali che il suo pascolo può contenere, qualsiasi surplus viene solitamente investito in ulteriori ornamenti per le donne, fornendo loro quindi una specie di libretto di risparmio portatile. I bambini e le bambine dai 6 ai 9 anni competono in perfetta uguaglianza nelle estenuanti corse a cavallo, cavalcando i loro robusti pony per 35 chilometri. E non vi sono barriere sessiste nemmeno nelle sfide canore durante i festival, competizioni incredibili che aiutano a preservare la loro storia. A livello politico, le donne hanno voce in capitolo anche nella gestione degli aul. Queste comunità ristrette, che sono solitamente composte da famiglie allargate, tendono a operare più per consenso che attraverso editti di leader onnipotenti. Il sistema dei nomadi dà voce in capitolo a tutti gli adulti sul modo in cui sono governati. Alcune donne hanno più peso di altre perché a loro è stato attribuito uno status speciale, come la nomina ad Ana, madre della tribù. Hewana, che si traduce approssimativamente come madre Eva, o Kelen. Una donna che proviene dall'esterno della tribù accumula status con l'età o divenendo adepta in compiti speciali come preparare i corpi per la sepoltura, organizzare matrimoni e condurre certi rituali e cerimonie. Lo status di Ana o Hewana può essere conferito per una varietà di motivi, incluso partorire 7 maschi o essere una vedova che manda avanti la famiglia. Una Kelen è una donna con capacità eccezionali e opera all'interno della sottotribù kazaka. È anche in grado di svolgere molte delle funzioni una volta eseguite dalle antiche sacerdotesse di alto rango. Di contro, una Ana o una Hewana riceve questo titolo onorifico per le sue responsabilità all'interno del suo nucleo familiare, il che indica che la sua posizione è a un grado inferiore rispetto alla Kelen. Gli Aul sono piccole comunità semplici e autosufficienti. Dato che le donne hanno un ruolo fondamentale nel far sì che tutti abbiano riparo, vestiti e cibo, i loro doveri domestici sono un contributo di importanza vitale, di vita o di morte, e questo eleva il loro status. Durante le mie visite ho notato come tutti dovevano contribuire alla sopravvivenza del gruppo, cosa che priva i nomadi delle steppe dal dubbio lusso di relegare il sesso femminile a funzioni puramente ornamentali o di imporre loro restrizioni comportamentali, riscontrabili in molte culture cosiddette sofisticate. Anche se i nomadi delle steppe hanno abbracciato l'Islam nel X secolo, la pragmaticità è spesso stata anteposta alla devozione. Le donne kazake sono fiere di non aver mai portato il chador, né è proibito loro di apparire in pubblico senza un parente maschio a fianco. Con questo non voglio suggerire che le società nomadi delle steppe siano completamente paritarie. Nel complesso, guardando il tranquillo cameratismo tra uomini e donne che svolgevano i loro compiti quotidiani o chiacchieravano la sera nella yurta seduti su tappeto di feltro, rimasi piacevolmente sorpresa nell'osservare come la maggior parte dei ruoli sessuali fosse indefinito e come il contributo domestico delle donne desse loro notevole influenza e gran rispetto. Ma una volta stabilita la natura paritaria della moderna società nomade kazaka, possiamo di conseguenza desumere che tali principi fossero stati applicati anche dai loro predecessori nelle steppe? Dal passato sembrano arrivarci davvero molte prove che le donne del focolare godessero di grande potere e prosperità persino nelle tribù più guerriere. Vi sono molti racconti greci, persiani e romani che narrano della presa di potere da parte di vedove di capi nomadi assassinati che facevano le veci dei mariti fino a nuove elezioni, potere Potevano volerci mesi, persino anni, fino a che le tribù si potessero riunire per il grande incontro, durante il quale avvenivano le elezioni. E in quel periodo le donne che fungevano da leader erano tutt'altro che figure meramente rappresentative. Erodoto scrisse di Tomiris, una donna che portò la sua tribù, chiamata Saka Massageti, alla vittoria contro il re persiano Ciro il Grande nel 530 a.C. Ne parleremo più avanti. Inoltre, nel V secolo a.C., il medico e storico greco Ctesia testimoniò le imprese di Zarina, a capo di un altro gruppo di Saka, amatissima dal suo popolo, che dopo la sua morte eresse in suo onore un enorme kurgan coronato da una statua d'oro. A volte persino la vedova poteva vincere l'elezione tribale secondo chi era giudicato il più adatto e con più influenza. Anche altre tribù antiche delle steppe hanno avuto donne di potere. I capi sauromati e Saka includevano delle donne nella cerchia dei consiglieri. Le donne sarmati occupavano posizioni così elevate che le loro tribù erano dette governate dalle donne, dagli altri abitanti delle steppe, che disapprovavano questa indecorosa influenza femminile. Infatti sembra che le donne fossero talmente potenti che l'antropologo russo Anatoly Kazanov affermò: esistono basi solide per pensare che la matrilinearità sia stata preservata a lungo tra gli antichi nomadi nelle steppe eurasiatiche, inclusi i sarmati. Le prove archeologiche ricavate da alcuni kurgan di Pokrovka supportano certamente la teoria della matrilinearità tra i sauromati e i primi sarmati. Esaminando i reperti femminili a Pokrovka ci accolsero delle sorprese. Non solo le donne venivano generalmente sepolte con una maggiore varietà di ricchi manufatti, ma il loro stato sociale era più elevato di quello degli uomini. Circa il 15% delle donne era stato seppellito con armi e armatura, facendole rientrare nella categoria delle guerriere. E il 7% possedeva altari di pietra intagliata, specchi di bronzo, conchiglie fossilizzate e altri finimenti che le caratterizzava come sacerdotesse. Alcune donne, circa il 3%, erano state sepolte con manufatti sia da guerriera sia da sacerdotessa, cosa che sembrava suggerire uno stato sociale estremamente elevato. Un altro 3% aveva accanto degli pseudofusi a spirale, un oggetto davvero curioso, dal momento che erano stati intagliati nel gesso ed erano quindi troppo fragili per essere usati come veri attrezzi. Sono convinta che questi oggetti avessero un significato magico. Nessuna di queste donne era stata sepolta con bambini. Il gruppo più grande, circa il 75%, invece apparteneva alla categoria delle donne del focolare, che è contraddistinta da funzionali fusi in Creta. Nonostante tutte le ragazze nomadi imparassero a cavalcare nell'infanzia e continuassero a farlo anche nella pubertà, quando avevano dei figli e assumevano i doveri, le responsabilità e gli obblighi familiari, smettevano di passare molte ore in sella, se non per motivi di trasporto. Le donne provenienti da famiglie benestanti dimostravano la loro prosperità nella morte come nella vita. A parte la ricchezza delle offerte funebri, la vera prova dell'elevata considerazione per la donna nomade è la posizione all'interno della tomba. Chiarire l'ordine di sepoltura nei kurgan può essere un lavoro difficile e frustrante. Fummo quasi sempre in grado di determinare il sesso di chi occupava la sepoltura nel pozzo centrale riservato alle persone di stato più elevato, e nel 71% dei casi si trattò di una donna. Spesso gli uomini e le altre donne erano stati posti al suo fianco o sopra di lei in sepolture successive. La posizione d'onore non era riservata a guerrieri o sacerdotesse, ma era spesso assegnata a donne del focolare, rendendo ancora più credibile l'ipotesi che i Saurosarmati fossero una società matriarcale. In quanto custodi del focolare, con tutto ciò che questo implica in pratica e nei simboli, le donne sembrano essere state insignite con tali poteri e benessere che molti studiosi stentano a riconciliare questo fatto con l'idea preconcetta di feroci società guerriere a dominazione maschile. Inoltre, l'influenza femminile non fu confinata ad ambiti domestici. La mano che faceva dondolare la culla poteva anche impugnare una spada e decidere il destino della tribù con un lancio di ossa di pecora. I Sarmati da Pokrovka alle isole britanniche. Intorno al 400 a.C. i Sauromati iniziarono a spostarsi con popolazioni note agli autori antichi come Simatiani o Sarmati. Nessuno è certo dell'origine di tali popolazioni. Nonostante fossero anch'essi caucasici e parlassero una lingua indo-iraniana, i loro scheletri rivelarono un'ampia varietà di tipologie etniche, con alcuni individui alti e di ossatura possente molto simili ai vichinghi e altri di statura bassa e delicata. La mia teoria, basata su un notevole numero di comparazioni tra le offerte funebri, è che alcuni di questi individui possano essere appartenuti a più recenti generazioni di Saka, spinti a lasciare il proprio territorio vicino ai monti Tien Shan o da un'area più a sud verso il mare di Aral, dal bisogno di nuovi pascoli estivi. Intorno al III secolo d.C., essi iniziarono a migrare verso ovest e, occasionalmente, questi esperti cavalieri, equipaggiati con armature e armi sofisticate, costituirono una reale minaccia per le legioni romane di guardia alla frontiera sul Danubio. Gli intraprendenti legionari, tuttavia, gestirono la situazione reclutando alcuni sarmati nel loro esercito. Nel 175 d.C., più di 5.000 uomini delle steppe, molto probabilmente insieme alle loro famiglie, furono inviati al confine settentrionale dell'Inghilterra a guardia del Vallo di Adriano, aiutando a respingere le incursioni nella Britannia romana da parte dei Pitti, che venivano dalla Caledonia, cioè dalla Scozia, e dei Celti scozzesi. 20 anni dopo, i reggimenti sarmati vennero destinati in Gallia per sedare una ribellione. Successivamente furono rimandati in Britannia e, quando diventarono troppo vecchi per combattere, i sarmati si ritirarono nei quartieri per veterani del Lancashire. Sembra che abbiano apprezzato il clima britannico, a riprova del fatto che praticamente qualunque cosa sia meglio del clima delle steppe. Qui termina la lettura di oggi del libro di Janin, e come Scuola delle Donne vogliamo ricordare ciò che abbiamo già detto nella presentazione di questo libro, e cioè che Artù di Camelot era un sarmata. Quindi anche Janin conferma che i sarmati, tramite i legionari romani, dalle loro terre di origine, e cioè l'Ucraina, la Russia meridionale, l'Asia occidentale, tra il Mar Nero e i fiumi Don e Volga, furono trasferiti in territorio britanno.